a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Comincia con oggi questa nuova trasmissione a Regola d'Arte, ben trovati da Francesco Galante, un appuntamento settimanale che vede coinvolta soprattutto l'Unione Provinciale Artigiani di Padova in collaborazione con Blu Radio Veneto. Andiamo a cominciare questa puntata parlando delle iniziative dei produttori alimentari e per questo saluto Nicola Trentin, presidente del sistema di categoria produttori alimentari dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Benvenuto. Grazie, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. È una cosa bella quella che andiamo a raccontare oggi perché raccontiamo di un'esperienza di quattro aziende, quattro eccellenze dell'alimentare padovano che sono andate alla 18ª edizione di Cibus. È una fiera che si è svolta a Parma dal 9 al 12 maggio. Ce ne vuole parlare un po'? Sì, come diceva, è la 18ª edizione del Cibus. Cibus è il Salone Internazionale dell'Alimentazione organizzato dalla Fiera di Parma per promuovere le aziende alimentari italiane, sostanzialmente le eccellenze italiane che abbiamo. Ecco, e in questo caso dobbiamo raccontare che quattro aziende del Padovano sono proprio andate lì a esporre i loro prodotti. Quali sono queste aziende? L'Unione Provinciale Artigiani di Padova è riuscita, ha fatto come prima esperienza quest'anno Cibus e sono andate quattro aziende, come dicevi, che sono la Bertelli Salumi, il Pastificio Artusi, e Luigi De Mori e la Crifil. La Bertelli Salumi è un'azienda, come dice il nome, che si occupa della produzione di salumi, mentre il Pastificio Artusi produce pasta fresca e gnocchi. Luigi De Mori produce una fantastica porchetta e Crifil è un produttore artigianale di grissini. Come UPA Padova abbiamo colto con entusiasmo l'interesse di queste aziende nel partecipare a Cibus. Non nego che non ci sia stato un grosso lavoro da parte dell'associazione, perché comunque affrontare le dinamiche di una fiera così grossa, che se non mi sbaglio quest'anno contava più o meno un 72.000 visitatori, per cui voglio dire i numeri non sono piccoli, mi sembra circa 3.000 aziende e come spazi intorno ai 130-140.000 metri quadri, per cui voglio dire una fiera molto strutturata, molto grossa e soprattutto con molte presenze. Anche c'erano 2.000-2.200 Bayern che arrivavano da tutto il mondo. Infatti quest'anno i ragazzi mi dicevano che ci sono stati parecchi contatti, hanno portato a casa parecchi contatti addirittura anche dall'America, l'Australia. Ogni anno che cresce, infatti noi ci rendiamo conto di questa cosa, che facendo anche magari altre manifestazioni o fiere, più passa il tempo e più il consumatore o comunque le aziende estere vengono in cerca del nostro prodotto italiano, ma soprattutto vengono in cerca del nostro prodotto italiano di qualità, perché poi è vero che ci sono un sacco di truffe del famoso parmesan e via dicendo, però anche all'estero si stanno informando, cioè non è più come una volta che gli metti là qualsiasi cosa e va bene tutto, arrivano, assaggiano e se gli piace lo prendono, se non gli piace non lo prendono, ma i gusti sono affinati e anche loro con il tempo si sono migliorati. Certo, quindi una fiera grandissima che serve proprio per l'esportazione per l'estero e anche poi per il mercato interno, ovviamente per promuovere i vari prodotti. Tra l'altro so che c'è stata un'azienda che ha avuto un premio. Esatto, durante Cibus c'è stato un altro associato che è il caseificio Morandi di Anguillara Veneta che ha preso niente meno che la medaglia d'oro per la robiola di capra al concorso Alma Caseus, che è un'iniziativa che valorizza il patrimonio dei formaggi italiani e premia i migliori professionisti del settore, per cui voglio dire siamo riusciti ad andare a Parma, siamo riusciti ad affrontare la fiera, perché comunque anche i costi di questa fiera sono altissimi, per cui abbiamo creato questa unione tra quattro aziende, insieme con la Confartigianato siamo riusciti a creare una sinergia forte e che anche per le aziende come costi non sono stati troppo elevati. E in più ci siamo portati a casa una medaglia d'oro come miglior robiola di capra, voglio dire, per cui meglio di così non potevo andare. Allora bisognerà assaggiarla questa robiola di capra del caseificio Morandi di Anguillara Veneta, così lo diciamo, almeno uno se la va ad assaggiare. L'interesse proprio in questi prodotti tipici artigianali è assoluto, allora. Assolutamente sì, c'è un interesse che è veramente forte e di conseguenza c'è anche soddisfazione in chi affronta la fiera, spende dei soldi e ha un ritorno, e ha un ritorno. Ci fermiamo un attimo per un po' di musica. All my friends and lovers, there's something I'd like to say. If you feel you've lost a little faith along the way, if you ever wonder how you came to be here, I need to tell you that you've got nothing to fear. There are reasons for the way that this world works. There are reasons, and though sometimes it still hurts. Don't worry, don't worry, if you can't find love in a hurry. Don't fret, don't fret, 'cause love's not giving up yet. It's hard won, hard won, love doesn't care what you've done. Someone here for everyone. All of my siblings' songs, all my childhood lovers and the others that I've run from. There are reasons for the way that this world spins. There are reasons, and if you can't find your way, don't worry, don't worry, if you can't find love in a hurry. Don't fret, don't fret, 'cause love's not giving up yet. It's hard won, hard won, doesn't care what you've done. Someone here for everyone. And if you're still waiting for that chance to come your way, hold on, hold on, hold on. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Siamo ancora insieme a Nicola Trentin, presidente del sistema di categoria produttori alimentari dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Abbiamo parlato dell'esperienza di Cibus a Parma, questa fiera del settore alimentare dal 9 al 12 maggio. Sicuramente quindi tornerete a fare una nuova esperienza anche l'anno prossimo. Non l'anno prossimo, perché Cibus è biennale, ma fra due anni, benissimo. Infatti ci stiamo già organizzando, mi scusi il giro di parole, per cominciare ad organizzare appunto il Cibus del 2018. Quindi magari se c'è qualche altra azienda che vuole unirsi in questo percorso può chiamare Lupa. Cominci subito. Ora cambiamo argomento e parliamo di un evento che c'è stato alla Fiera di Padova, alla Fiera Campionaria di Padova, lo scorso 17 maggio, un convegno che parlava dell'etichettatura dei prodotti alimentari. e dal 13 dicembre 2016 scatta l'obbligo di riportare sui prodotti alimentari preconfezionati le informazioni sui valori nutrizionali dei componenti dei prodotti. Cosa significa? Significa che noi artigiani dobbiamo cominciare a farli, a creare questi valori nutrizionali e attaccarli sui prodotti che andremo a vendere. Martedì sera, durante la fiera campionaria, insieme all'Unione Camere, abbiamo presentato un software prodotto dalla Food Label Check che ci permette di poter affrontare con costi abbastanza bassi, ma stiamo lavorando ancora per poter abbassarli ancora di più. L'ideale sarebbe quello di averli in forma gratuita dalla parte della Camera di Commercio, però in questo momento anche loro hanno delle difficoltà, per cui sarà difficile, ma sicuramente a prezzi abbastanza agevolati. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che per noi artigiani abbiamo la possibilità di confrontarci anche con la grande distribuzione e soprattutto con l'industria. Perché? Perché l'industria già da un po' di tempo che mette i valori nutrizionali nei prodotti. Ecco, per valori nutrizionali si intende, giusto per capirci, quante calorie, quanti grassi, quella è l'etichetta. Sì. È quello. Quello, sì. Per cui andiamo a mettere a nudo la nostra ricetta. Certo. O perlomeno non la nostra ricetta, ma andiamo a mettere a nudo quello che è il prodotto che noi stiamo vendendo al consumatore. Sicuramente è un onere per l'azienda, sicuramente creerà all'inizio delle difficoltà o comunque un lavoro in più da fare, però dobbiamo tener conto di un'altra cosa, che al consumatore siamo ancora di più trasparenti rispetto all'industria, perché noi artigiani abbiamo la possibilità di lavorare con delle materie prime di alta qualità. Lavorando con materie prime di alta qualità, dando un servizio al cliente molto attento, un buon packaging, e poi alla fine diamo anche il valore nutrizionale del prodotto, abbiamo chiuso un cerchio e arriviamo al cliente direttamente in maniera trasparente e soprattutto leale nei suoi confronti. Certo, allora questo sistema è stato organizzato, adesso si tratta solo di adeguarsi a questa legge che dal 13 dicembre vedrà tutti i prodotti alimentari con l'etichetta e la dichiarazione nutrizionale. Sì. Quindi anche in questo caso sarebbe bene contattare l'UPA se vi siete persi questo convegno. Altro sguardo veloce lo diamo a un'altra notizia: dal 20 novembre scorso i panificatori veneti possono richiedere il marchio di forno di qualità. Sì, dal 20 novembre scorso noi panificatori veneti abbiamo la possibilità di richiedere il marchio forno di qualità alla Regione Veneto, che ha ideato questo marchio per garantire al consumatore l'acquisto del vero pane fresco e anche del vero pane sano, perché per avere questo marchio forno di qualità prevede un disciplinare dove non c'è la possibilità assoluta di utilizzare nessun tipo di conservante, di prodotto chimico, di miglioratore, agenti miglioranti negli impasti. C'è un limite anche nell'utilizzo del lievito di birra e alla fine con questo disciplinare è garantito un prodotto di qualità e soprattutto sano al consumatore. Ecco che il consumatore, nel momento in cui trova il marchio fuori in vetrina o all'interno del negozio forno di qualità, ha una garanzia in più sulla qualità del prodotto. Certo, negli ultimi due anni in Veneto, in Italia, è esploso l'import dei prodotti da forno provenienti dall'est Europa. Siamo passati da 4 a 8 milioni di euro, quindi raddoppiato. Sì. Fenomeno che spiega il boom della produzione di pane appena sfornato da parte della grande distribuzione, che è sì bello caldo, magari croccante, però è un pane che era stato preparato, precotto, surgelato e poi viene riscaldato. Sì, che poi in forma non trasparente nei confronti del consumatore scrivono fuori sforniamo pane tutto il giorno. Sì, è vero, sfornano il pane, lo tirano fuori dal forno, ma quando uno legge una frase del genere gli viene in mente questi fanno il pane e me lo danno fresco direttamente. In realtà non è così, perché magari quel pane lì è stato prodotto 6 mesi prima in Romania, quando che teniamo conto che in Romania fino a qualche anno fa non avevano nessuna normativa alimentare Allora dico, ma che tipo di pane, che tipo di prodotto c'è? Perché chiamarlo pane mi sembra anche di sminuire quello che è il pane, quello che è il prodotto re della nostra tavola. Che tipo di prodotto c'è lì dentro? Che garanzia abbiamo noi su quel prodotto lì? Cosa stiamo mangiando? Quindi cerchiamo allora il forno di qualità, questo marchio che questa vetrofania penso che deve essere appiccicata alle vetrine dei panifici, e scegliamo il pane adeguatamente. Sì. Grazie a Nicola Trentin, presidente del sistema di categoria produttori alimentari dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova, per essere stato con noi. Grazie a voi, saluti, buona giornata. Terminiamo questa prima puntata di A Regola d'Arte con un'ultima notizia. Gli artigiani di UPA vanno nelle scuole per insegnare la corretta alimentazione. Alimentarsi in modo sano è fondamentale per crescere bene. Ne sono convinti gli alimentaristi dell'Unione Provinciale Artigiani, che da anni propongono il progetto di educazione alimentare Impariamo di Gusto, con il contributo di EBAV, Ente Bilaterale Artigianato Veneto. Dopo i successi raccolti quest'anno, il progetto ha visto per la prima volta l'estensione dei laboratori su tutto il territorio provinciale. La storica collaborazione con l'ASL 16 di Padova ha aperto le porte all'ASL 15 Alta Padovana e all'ASL 17. Destinato ai bambini che frequentano le scuole materne e primarie, Impariamo di Gusto vede impegnata la categoria dei produttori alimentari negli istituti della provincia di Padova che hanno aderito all'iniziativa. Il progetto educativo offrirà la possibilità di trasmettere ai bambini, i consumatori più giovani, l'importanza di un prodotto alimentare realizzato a mano, con arte, cura e passione, dalle mani di un artigiano. I numeri del progetto: oltre 1.900 bambini coinvolti, 24 istituti scolastici, 7 maestri artigiani, 5 diversi tipi di laboratori, pizza, cioccolato, biscotti, pane e gelato. Una risentirci a presto da Francesco Galante. Vi ricordo che potete scaricare e riascoltare la puntata di A Regola d'Arte prendendola dal sito bluradioveneto.it. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.